Prendiamo la diretta dagli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko, dopo il GR di Radio Polare. Ci colleghiamo ancora con l'argomento principale. Arriva il buongiorno da Sandro. Buongiorno Willy, sulla strage di Suviana, l'ipocrisia della politica che cancella il codice appalti, poi manda la propria vicinanza alle vittime, il tranviere bolognese. Sì, oltretutto mi collego anche ad altri aspetti, se vogliamo, come certo, ovviamente davanti a tutto ciò l'importanza di arrivare concretamente a qualcosa che ponga fine a questa strage, ma anch'io ho notato un'informazione che porta le vite umane di lavoratrici e lavoratori caduti sul lavoro come numeri. Anestesia che continua, e alle 7.50, come vi ho detto, oggi mercoledì ritorna Silvia Pioggia, la Sissa, per portare la pillola dell'incipit. Quindi bentornata, ascoltiamo questo incipit e poi un po' di musica a seguire il Voltiamo Pagina. Ciao, sono la Sissa e questo è l'incipit. Tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione. Quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo prendere una decisione o fare qualcosa di nuovo. E allora, perché non farlo con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. Voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni titoli che mi hanno consigliato persone che solitamente hanno ottimi gusti e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Queste sono le prime 18 righe dell'Animale morente di Philip Roth. L'ho conosciuta 8 anni fa. Frequentava il mio corso. Io non insegno più a tempo pieno e se volessi essere preciso dovrei dire che non insegno letteratura. Già da molti anni tengo un solo corso, un grande seminario di critica letteraria per i laureandi che ho chiamato Practical Criticism. Le mie lezioni attirano un mucchio di studentesse per 2 ragioni, perché l'argomento presenta un'allettante combinazione di glamour intellettuale e glamour giornalistico e perché le ragazze mi hanno sentito recensire libri alla radio o visto parlare di cultura alla televisione. Negli ultimi 15 anni fare il critico culturale in un programma televisivo mi ha reso piuttosto popolare localmente e per questo il mio corso attira le ragazze. Nei primi tempi non mi ero reso conto che parlare alla TV per 10 minuti una volta alla settimana potesse fare l'effetto che fa a queste studentesse, ma le ragazze sono irrimediabilmente attratte dalla celebrità, per insignificante che possa essere la mia. Questo è David Kepesh che parla. Chissà che un giorno non leggiate un libro proprio scritto dalla Sissa. Come on, my readers! Ah, cara Silvia, intanto grazie per questa puntata numero 41. Philip Roth, l'animale morente, grande scrittore, non ha bisogno di presentazioni, quindi ottima selezione e anche ottima interpretazione alla lettura di questo incipit. Noi ce l'auguriamo di leggere un tuo lavoro. Lo presentiamo magari al Voltiamo Pagina, ok? A breve il Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 10 aprile. Prima un po' di musica con questo pianista, Bojan Zi, perché il suo nome, ora provo a pronunciarlo, è veramente molto difficile. È un pianista, Bojan Zulfikarpasic, ecco, ce l'ho fatta. È un'attinenza, se vogliamo, anche con il libro che andrò a presentare a breve. Non cambiate frequenza, anzi ricordo il 333-180-9494 per comunicazione, co-conduzioni, eventuali vincite dei volumi da noi presentati tramite quiz. A tra poco!